Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi. E lo aspetti ad un telefono, litigando che sei libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da solo, dentro un brivido, ma perché lui non c'è? E sono strani amori che fanno crescere e sorridere tra le lacrime, quante pagine lì da scrivere, sogni lividi da dividere, sono amori che spesso a questa età si confondono dentro a quest'anima che si interroga senza decidere se è un amore che fa per noi. E quante notti persa a piangere, rileggendo quelle lettere, che non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Grandi amori che finiscono, ma perché restano nel cuore? Strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono, storie vere che ci appartengono, ma si lasciano come noi. Strani amori fragili, prigionieri, questa volta l'ho promesso a me, perché io voglio di un amore vero senza te.